Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Cari bambini, oggi a Chiedo Asilo parleremo della mitomania. Oh, che bello. Sì, un disturbo della personalità molto diffuso tra voi ragazzi e bambini. Sì, ma è lieve come disturbo, non vi preoccupate. Poi crescendo passa. Sì, insomma, ecco, facciamo un esempio però, così si capisce. Avete presente quando dite che Ibrahimovic è vostro cugino alla lontana, anche se non avete nessun parente svedese? Ecco, quella è la mitomania. Vabbè, quando la si spara grossa per farsi notare. Ecco, Kappa minimizza, non c'è niente da minimizzare. Perché dire di essere cugini di Ibrahimovic a tutti quelli che si conoscono è un comportamento da mitomane. Sì. E attenzione, perché a furia di dire balle così grandi nessuno vi prenderà mai più sul serio. Sì, vabbè, al lupo. Non è la stessa cosa, però te la faccio passare. Come non è la stessa, cosa? Vabbè. Lupo al lupo è quando crei un allarme. Vabbè, quando comunque, invece dici di essere cugino di Ibrahimovic. Cosa? Crei un allarme anche lì? No, non è vero. Insomma, non crei nessun allarme. Anche voi capito? Adulti, cioè bambini con il corpo da adulti, voi che popolate il nostro paese a milioni, anche voi. Smettete di fare i mitomani. Ma perché voi, scusa, smettiamo anche noi. Smettiamo anche noi, sì, perché qui in Italia la curva è preoccupante. Ormai ci sono persone che si attribuiscono cariche così, tanto per sentirsi importanti. E anche questo mi sembra un esempio di quella regressione di cui parlano tutti. Anche i bambini. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. In effetti, pensiamoci un attimo, scusa, perché se in TV c'è un bambino ex direttore di giornale lo si continua a chiamare bambino direttore? Perché, ad esempio, se c'è il bambino Prodi lo si continua a chiamare bambino presidente Prodi? Non lo è più presidente. E perché si dice dottore a uno che ha la laurea triennale? Perché siamo mitomani, da un certo punto di vista. Ecco. O cialtroni o mitomani. Perché quando si parla del bambino Cacciari o del bambino Buttiglione si dice che sono filosofi? Vabbè, perché ma siamo loro mitomani. Sono filosofi. Come sono filosofi? Come no? Ma no, loro insegnano filosofia all'università, molto diverso da essere filosofi. Vabbè, ma scusa, chi sono i filosofi? Fanciullo, insegnano filosofia, non ci sono mica più i filosofi come Platone e Hegel. Quelli lì si svegliavano al mattino e poi scrivevano 30 pagine di verità assoluta su tutto e boh, è finito lì, ma non ci sono più. Adesso ci sono i filosofi pop. Quelli vanno bene in TV. Sì, però se tu vai a Princeton, chiedi le opere del filosofo bambino Stefano Bonaga nella biblioteca, mica le trovi, eh. Al massimo ti chiedono se è quel Bonaga che usciva con la bambina Parietti. Ah sì, perché a Princeton conoscono la bambina Parietti. Allora è più facile che ti chiedano se è quello stesso bambino Bonaga che ha sposato Andrea Lehocka. Chi? Andrea Lehocka, nota filosofa slovacca. Anzi, no, fa la showgirl, però insomma slovacca è slovacca. Comunque non sono d'accordo su Bonaga. Secondo me è preparato e si fa capire. Se, allora, con grandi analisi chimiche, psicologiche, sociologiche, la conoscenza, la diffusione assoluta nei temi, se questo, allora questo. Se questo, quello, if, then, basic. Sì, filosofo basic, in effetti. Ma non è vero, guarda che insegna anche cose pratiche. Se questo, allora questo. Se metti le dita nella corrente, ti fai male. Ecco, e questa sarebbe la filosofia secondo il bambino filosofo, tra virgolette, Bonaga. Filosofo, ma non è filosofo, semplicemente lui lavora come ricercatore confermato all'Università di Bologna. Vabbè, almeno è confermato, no? È acceso. Come acceso? Confermato. Accendiamo? Confermiamo? Ma, ricercatore, ma accendiamo? Ma la trasmissione di Jerry Scott. Vabbè, l'università ormai è come la TV. Appunto, vuoi mettere i filosofi quelli veri? E quali sono i filosofi veri? Diderot, Rousseau, gente che ha scolpito delle idee nel tempo. Tutti sanno che Rousseau ha scritto l'Emilio. Tutti. Qualcuno sa che libri ha scritto il bambino Bonaga. Vabbè, magari ha scritto un manuale di sicurezza domestica. Ma sì, la storia delle dita nella corrente. Appunto, ma Rousseau, quello aveva delle idee che si ricordano nel tempo, altro che le dita nella corrente. Il fatto che Rousseau abbia scritto nell'Emilio che il bambino nasce buono e poi è l'ambiente a corromperlo, ma questo lo sanno cose tutti. Sai? Quante cose ma sono cose che le sanno tutti. Tu sai qualcosa che invece ha detto Bonaga che tutti sanno? Vabbè, secondo me comunque Rousseau si sbagliava perché l'uomo non è buono di natura, no? Come no? Certo che è buono di natura, lo diceva Rousseau. No, io penso che invece abbia ragione quell'altro, com'è che si chiamava? Locke. Tito. Sì, poi era John Locke. Locke era quel comico sardo degli anni 80. Era anche uno dai. Di Lost. Ma non cambiamo discorso, dai, parliamo dei filosofi che fanno finta di essere filosofi, ma non lo sono per davvero. E io continuo a non essere d'accordo con Rousseau, anche invece se svizzero. Devi fartene una ragione: i bambini sono tutti buoni, è solo l'ambiente che li corrompe. Ma scusa, il bambino Corona, ad esempio, secondo te quello lì è nato buono? E certo, tu prendi un bambino buonissimo, anche il bambino Corona, lo sbatti di colpo nel mondo dei privé, lo inviti in TV a Matrix col bambino Vinci e senti quello che succede. La gente, gli avvocati, la magistratura viene e dice solo bugie, è un mondo di bugie e io pago per l'ipocrisia e la falsità della gente. Corona, per favore! Oh, cacciate, me ne vado! Ai! Corona, tu hai sbattuto la mano contro un muro, ti sei fatto pure male, io ti ringrazio per essere rimasto qui con noi. Cerca però di stare calmo, perché è più facile raccontare la propria versione stando calmi che non bucando muri. Stronzate! Corona! Stronzate! Ai! Stop your feet! Ricreazione, così ne approfitto un po' e mi aggiorno il profilo su Facebook. Ma anche tu. Cosa? Anche io come tutti, Drago. Sì, purtroppo proprio tutti. Anche i politici adesso si sono dati a Facebook. Vabbè, meno male. No, meno male. I giornali ne hanno pure scritto, no? C'è stato un titolo, il sorpasso storico del bambino governatore Vendola sul bambino premier Berlusconi. Purtroppo però si parlava di sorpasso in fatto di amici. Come di amici. Purtroppo? E poi il bambino Vendola ha più amici di Berlusconi. Così dicevano i giornali, mica sono andato a controllare. Comunque amiche ne ha sicuramente più Berlusconi. Ma non ero mica fuori tema, parlavo di Facebook. Sì, però forse in questo caso Tito non interviene nella sua veste abituale di farci tornare sul tema, ma in veste di moralizzatore. Ma in che senso? Parlavi di amiche, di Berlusconi, ecco, hai visto? Comunque è giusto che i bambini politici si aprano ai social network, ma che no, è fondamentale. Ma come non no? È vero, ma io ricordo ancora con orrore quando il bambino Di Pietro andò in Second Life, anche lì ci fu un grande casino. Ah, già. Adesso Second Life quasi non esiste più, non ci va più nessuno. E quindi il bambino Di Pietro di Second Life che fine ha fatto? Boh, sarà pieno di polvere. Forse i cani vanno lì, annusano. Vabbè, no, lascia perdere. No. Vabbè, comunque Second Life era un pacco, dai, sì. Facebook invece funziona. Ad esempio, il ministro bambino Brunetta attira migliaia di amici col suo messaggio di benvenuto. Senti che roba. Amici di Facebook, buongiorno. Buongiorno. So che siete in tanti, ma questa è la prima volta che mi rivolgo a voi. Grazie intanto di esserci. Io finora non ho fatto niente. Ma come non fa nulla? Per colloquiare con voi. Ah. Da adesso, cosa? Se vorrete, potremo parlare un po' insieme. Che carisma, eh? Beh, tutti faranno la fila a chiedere l'amicizia al ministro bambino Brunetta, eh? Che palle però sta moda di Facebook. Ma guarda, tutti lo fanno, guarda, anche il bambino Alberto ma è lì no, col telefonino, figurati, vedrai dai. Che starà aggiornando il suo profilo di Facebook. Albertuccio! Albertino! Alberto, ho detto che mi chiamo Alberto. Vabbè, allora, cosa stai facendo lì col cellulare? Aggiorno il mio Facebook. Ma come anche tu Facebook? Sì, E quanti amici hai tu? Due. Solo? Come due? Sono un bambino dell'asilo. Sì, però vabbè, dai, sai che su Facebook puoi anche avere 2000 amici, nemmeno uno nella vita vera. Tipo il bambino Berlusconi o il bambino Vendola. Io sono amico di Berlusconi su Facebook, E quindi uno dei tuoi due amici è il bambino Berlusconi. E l'altro il bambino Vendola. No, mia madre non vuole. Perché? Perché dice che ha l'orecchino. Vabbè, cosa c'è che non va nell'orecchino? Lei dice che l'orecchino lo usano le donne. E mentre Vendola è un uomo. Vabbè, ma questo che opinioni sono? Vabbè, senti, Albertengo. Alberto! Vabbè, Alberto, dimmi chi è l'altro tuo amico, scusa. Un bambino dell'asilo, sì, sarà. No, è Marietti Pompe Idrauliche. Chi? Marietti Pompe Idrauliche. Sì. Ma cos'è? Una società, un'azienda? Cos'è? Non so, mi ha chiesto l'amicizia e io gliel'ho data. Ma Alberto, ma quelli si fanno pubblicità, non è che sono veri vabbè, amici. Vabbè, perché invece il bambino Berlusconi... Vabbè, ma questi qui non vendono pompe idrauliche, non raccontano nemmeno le barzellette, quindi non so che utilità possono avere. Sì, compenso questi qui mi hanno rifilato una pompa idraulica. In che senso? Nel senso che un giorno ci è arrivata a casa una pompa idraulica, no? E niente, allora mio padre mi ha riempito di botte. Ah, vabbè. Poi ha riempito di botte anche mia madre. Ma no, vabbè, questo no. E poi è uscito di casa e è andato a comprare una mazza da baseball. E quella lì poi è tornato, l'ha messa sul caminetto, no? Come forma di minaccia, no? Come dire, attenti, la prossima. Vabbè. E invece adesso cosa viene fatta della pompa idraulica a Marietti? Niente, io gliel'ho detto a mio padre. Ma cosa? Gliel'ho detto. Ma cosa? Gli ho detto che per usare bene la pompa idraulica ci vuole il motore elettrico, Vabbè. E quindi? E poi gli ho detto che coi soldi che ha speso per la mazza da baseball si poteva comprare anche un bel motore elettrico. E lui cosa ha detto? Ho usato la mazza da baseball. Ma non ci credo, Albertino, hai troppa fantasia. Dai, tu, troppa fantasia. No, no, ha usato la mazza da baseball sulla pompa idraulica Marietti, eh. Ah, quindi l'ha distrutta. Eh no, ha vinto la pompa idraulica e si è rotta la mazza. Ah, vedi, ste pompe idrauliche Marietti. Se vuoi ti passo l'amicizia, eh. Perché no? Torniamo domani e allegate la vostra pompa idraulica a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.